Sapevo quanto ripugnasse alla nonna vedere certe bestie, a maggior ragione esserne toccata. Sapevo che, se sopportava le sanguisughe, era in considerazione di un'utilità superiore. Così Françoise mi portava all'esasperazione, ripetendole, con i risolini che si rivolgono a un bimbo per farlo giocare: «Oh, che belle bestioline vanno a spasso sulla signora!» Era oltretutto un trattare la malata senza rispetto, come se fosse regredita all'infanzia. Ma la nonna, il cui volto aveva assunto l'espressione calma e coraggiosa di uno stoico, sembrava non sentirla nemmeno. Appena tolte le sanguisughe, purtroppo, la congestione riprese, sempre più aggravandosi. Sorprendentemente, ora che la nonna stava tanto male, Françoise spariva tutti i momenti. Ma si era ordinata un abito da lutto e non voleva fare aspettare la sarta. Nella vita della maggior parte delle donne, tutto, anche il più grande dolore, va a finire nella prova di un vestito. Qualche giorno dopo, mia madre venne a svegliarmi nel cuore della notte. Con le dolci attenzioni che le persone oppresse da un profondo dolore accordano, nelle circostanze più gravi, anche ai minimi fastidi altrui, «Perdonami se ti disturbo nel sonno», mi disse. «Non dormivo», la rassicurai svegliandomi. Lo dicevo in buona fede. La grande modificazione introdotta in noi dal risveglio non consiste tanto nel farci accedere alla vita chiara della coscienza, quanto nel farci perdere il ricordo della luce attenuata in cui riposava, come nella profondità opalina delle acque, la nostra intelligenza. I pensieri semivelati, sui quali vogavamo fino a un istante prima, producevano in noi un movimento del tutto sufficiente a farceli designare col nome di veglia, ma i risvegli, allora, si imbattono in un'interferenza di memoria. Un attimo dopo li definiamo sonno, perché non li ricordiamo più. E quando si accende la vivida stella che, nel momento del risveglio, illumina dietro il dormiente l'intera distesa del suo sonno, essa ci induce a credere, per pochi secondi, che non di sonno si trattasse, ma di veglia. Stella filante, in verità, che insieme alla sua luce porta via non solo l'esistenza menzognera, ma le figure stesse del sogno, e a chi si sveglia consente appena di dire a se stesso: «Ho dormito». Con voce così dolce da far pensare che temesse di farmi male, mia madre mi chiese se non mi sarei stancato troppo ad alzarmi e, accarezzandomi le mani: «Povero piccino, d'ora in avanti potrai contare soltanto sul tuo papà e sulla tua mamma». Entrammo nella stanza. Piegato a semicerchio sul letto, un essere affatto diverso dalla nonna, una specie di bestia che si fosse travestita coi suoi capelli e coricata fra le sue lenzuola, ansimava, gemeva, scuoteva con le sue convulsioni le coperte. Le palpebre sembravano serrate, ma non tanto perché s'aprissero, quanto perché erano mal chiuse, lasciavano intravedere un angolo di pupilla, velato, cisposo, specchio oscuro di una visione organica e di una sofferenza interiore. Tanta agitazione non era rivolta a noi, che essa non vedeva né riconosceva. Ma se a dimenarsi così non era più che una bestia, dov'era allora la nonna? Si individuava, tuttavia, la forma del suo naso, sproporzionato adesso rispetto al resto del viso, ma segnato ancora su un lato dallo stesso neo, e la sua mano, occupata a scostare le coperte con un gesto che, un tempo, avrebbe significato che queste le davano fastidio e adesso, invece, non voleva dire più niente. La mamma mi chiese di andare a prendere un po' d'acqua e aceto per inumidire le tempie della nonna. Era l'unica cosa che potesse darle sollievo. Così almeno credeva la mamma, vedendo che cercava di scostarsi i capelli dalla fronte. Ma, dalla porta, mi fecero segno di andare di là. La notizia che la nonna era agli estremi si era immediatamente diffusa nel palazzo. Uno di quegli aiuti che si fanno venire nei casi d'emergenza per alleviare la fatica dei domestici, così che le agonie hanno qualcosa in comune con le feste, aveva appena aperto al duca di Guermantes, il quale, insediatosi nell'anticamera, chiedeva di me. Non potei sfuggirgli. «Ho appreso, caro signore, notizie alquanto macabre. Vorrei, in segno di simpatia, stringere la mano al vostro signor padre. Mi scusai, adducendo la difficoltà di disturbarlo in quel momento». Il signor di Guermantes capitava a proposito come uno che arrivi mentre si sta partendo, ma era talmente compreso dall'importanza del riguardo che ci usava che non vedeva nient'altro e voleva a tutti i costi raggiungere il salotto. In generale, teneva ad assolvere sino in fondo le formalità di cui aveva deciso di insignire qualcuno e non si lasciava impressionare se i bagagli erano fatti o la bara già pronta. «Avete chiamato Die la Foi? Ah, è stato un grave errore. Se me l'aveste chiesto, per me sarebbe venuto. Non mi rifiuta mai nulla, sebbene abbia detto di no alla duchessa di Chartres. Come vedete, mi metto tranquillamente al di sopra di una principessa del sangue. D'altronde, davanti alla morte, siamo tutti uguali», aggiunse, non per convincermi che la nonna, ora, fosse sul suo stesso piano, ma perché si era forse accorto del non eccessivo buon gusto di una conversazione prolungata intorno al suo potere su Die la Foi e alla sua superiorità sulla duchessa di Chartres. Il suo consiglio, del resto, non poteva sorprendermi. Sapevo che Guermantes facevano sempre il nome di Die la Foi, con appena un po' più di rispetto, come quello di un fornitore senza rivali. E la vecchia duchessa di Mortemart, nata Guermantes, è impossibile capire perché, quando si tratta di una duchessa, si dica quasi sempre la vecchia duchessa di, mentre se è giovane, si dice con una finezza alla Watteau la duchessina di. Nei casi gravi raccomandava quasi meccanicamente, strizzando l'occhio, «Die la Foi, Die la Foi», così come, se c'era bisogno di un gelataio, «Poire blanche», oppure per dei pasticcini, «Rebatté, rebatté», ma ignoravo che mio padre avesse fatto chiamare, per l'appunto, Die la Foi. In quel momento mia madre, che aspettava con impazienza delle bombole d'ossigeno destinate ad agevolare la respirazione della nonna, entrò a sua volta in anticamera, dove non immaginava certo di trovare il signor di Guermantes. Avrei voluto farlo scomparire. Ma, convinto che niente fosse più essenziale, potesse maggiormente lusingarla e fosse più indispensabile al mantenimento della sua reputazione di perfetto gentiluomo, il duca mi afferrò violentemente per il braccio e, sebbene io mi difendessi come da uno stupro, ripetendo «Ma signore, signore!», mi trascinò verso la mamma dicendomi «Volete farmi il grande onore di presentarmi alla signora vostra madre?» con un lieve deragliamento sulla parola «madre». Era talmente sicuro che l'onore fosse tutto per lei che non poté impedirsi di sorridere pur facendo una faccia di circostanza. Non potei evitare di pronunciare il suo nome, cosa che scatenò di colpo una serie di salamelecchi e saltelli da parte del duca in procinto di attaccare la versione integrale della cerimonia del saluto. Pensava addirittura di intavolare una conversazione, ma la mamma, chiusa nel suo dolore, mi disse di raggiungerla subito e non rispose nemmeno alle frasi del signor di Guermantes, il quale, aspettandosi di essere ricevuto in visita e ritrovandosi invece abbandonato in anticamera, avrebbe finito con l'andarsene se, proprio in quel momento, non avesse visto entrare Saint-Lieu, arrivato il mattino stesso a Parigi e accorso a quelle nuove. «Ah! Questa sì che è buona!» esclamò il duca con accento gioioso, afferrando il nipote per una manica a rischio di strappargliela e disinteressandosi della presenza di mia madre che stava riattraversando l'anticamera. Credo che Saint-Lieu, malgrado la sincerità del suo dolore, non fosse poi tanto dispiaciuto di evitare un incontro con me, date le sue disposizioni nei miei confronti. Se ne andò trascinato dallo zio, il quale, dovendo dirgli qualcosa di molto importante ed essendo stato per questo sul punto di recarsi a Doncières, non stava in sé dalla soddisfazione di potersi risparmiare una simile seccatura. «Ah, se qualcuno m'avesse detto che bastava attraversare il cortile per incontrarti, avrei pensato di essere preso per i fondelli. Come direbbe il tuo amico Bloch, è un vero sollazzo!» E mentre, tenendolo per la spalla, si allontanava con Robert. «Non c'è che dire!» ripeteva. «Si vede che ho incespicato in un ferro di cavallo o qualcosa di simile. Ho una dannata fortuna!» Non che il duca di Guermantes fosse maleducato, al contrario, ma era di quegli uomini incapaci di mettersi nei panni degli altri, simili in questo alla maggior parte dei medici e dei becchini, di quegli uomini che, dopo aver assunto un'espressione di circostanza e aver detto «Ah, oh, sono momenti molto, molto dolorosi», dopo avervi baciati, magari, e consigliato di riposarvi in un'agonia o in un funerale, non vedono ormai nient'altro che una riunione mondana più o meno ristretta, dove, con giovialità appena contenuta, cercano con gli occhi qualcuno cui parlare delle loro faccenduole. Chiedere di essere presentati a qualcun altro o proporre di riaccompagnarlo con la loro carrozza. Il duca di Guermantes, pur continuando a rallegrarsi del buon vento che l'aveva spinto verso il nipote, restò talmente stupito dell'accoglienza, peraltro così naturale, fattagli da mia madre, che ebbe poi a dichiarare di averla trovata tanto scorbutica quanto mio padre era cortese, aggiungendo che soffriva di assenze durante le quali sembrava non sentire quel che le si diceva. Insomma, secondo lui, non stava affatto bene e forse non aveva nemmeno la testa completamente a posto. Si degnò, tuttavia, a quanto mi fu riferito, di attribuire parzialmente quel complesso di sintomi alle circostanze e di precisare che mia madre gli era parsa alquanto turbata dall'avvenimento. Ma aveva ancora nelle gambe tutto lo strascico di saluti e inchini a marcia indietro che gli si era impedito di portare a compimento. E, d'altra parte, si rendeva così poco conto del dolore della mamma che il giorno prima dei funerali mi chiese perché non cercassi di distrarla un poco. Un cognato della nonna, un religioso che non avevo mai conosciuto, telegrafò in Austria dove risiedeva il generale del suo ordine e, ottenutane in via eccezionale l'autorizzazione, venne quel giorno a casa nostra. Sedeva, contristato, accanto al letto, leggendo testi di preghiere e di meditazioni, senza tuttavia staccare dalla malata i suoi occhi a succhiello. In un momento in cui la nonna era priva di conoscenza, la vista della tristezza di quel prete mi fece pena e lo guardai. Parve sorpreso della mia pietà e avvenne allora qualcosa di singolare. Si coperse il volto con le mani giunte, come un uomo assorto in una meditazione dolorosa, ma, capendo che avrei smesso di guardarlo, vidi che aveva lasciato un piccolo varco fra le dita. E, nell'attimo in cui il mio sguardo si staccava da lui, mi resi conto che il suo occhio acuto aveva approfittato dello schermo delle mani per osservare quanto fosse sincero il mio dolore. Se ne stava imboscato, là dietro, come nell'ombra di un confessionale. Si accorse che lo vedevo e si affrettò a chiudere ermeticamente la grata che aveva lasciata socchiusa. In seguito l'ho rivisto e mai si parlò di quell'istante. Tacitamente si convenne che io non mi fossi accorto che mi aveva spiato. Nei preti, come negli alienisti, c'è sempre qualcosa del giudice istruttore. Quale sia pur caro amico, d'altronde, non conta nel suo passato, quel passato che ha in comune con noi, uno almeno di questi istanti di cui ci fa più comodo convincerci che non abbia serbato alcun ricordo?